Radio 105. Proud to be different. Is it that ice cold Michelle fight for that white gold? This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Set you hallelujah, cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick say my name. Set you hallelujah. Wow. Girl, set you hallelujah. Girl, set you hallelujah. Wow. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. I said Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up, Uptown funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it, if you freak dead and own it, don't break about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've succeeded and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Uptown Funk, canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata di 13 PM. Abbiamo ancora il tempo, proprio così al volo, di sentire i vostri messaggini, ovvero come trasformare un colosso al cinematografico in un film per bambini. Chi è? Non aprite quella scatola di polca. Questa va bene anche per Fargi. Non apritela. Certo. Terrore. Beh, Alessio da Brescia suggerisce Titanic. Va bene. Poi The Born. The Born. I denti lavali. Sì. Okay. Vabbè. Yeah. Buongiorno. Diciamo che questa va bene sia per grandi che per piccini. Sì. 50 sfumature di lecca lecca. Vabbè, sì, questa va bene per tutti. 7 anni in sala giochi. Sì. E poi arriva Massimo da Brescia, anziché 7 anni in Tibet. Bubu 7 anni in Tibet. Che meraviglia, sì. Eccola ciao, lì. Ciao, ciao. Ho visto la vostra foto con i costumi. Sì. Paolino, stai benissimo amore. Con quel costume da fatina, sei bufo. Ciao Paolino. Ciao amore. Ciao Paolino. Ciao. È vero che sei bene col costume da fatina. Se qualcuno se lo fosse perso sul Instagram di Paolino underscore DJ, e anche messo sulle stories di Martin Klein 105 c'è la foto intera, perché Paolino si è tagliato i piedi. E beh, insomma, e mi ha tagliato i piedi. È vero, ti ho tagliato i piedi, ti ho tagliato anche il castello. Ciao Alberto da Bologna. Ciao Alberto. Ciao Alberto. Signori è tutto, noi ringraziamo la zia, ringraziamo la nostra Lidia, grazie al Fargi. Ma forse ci sono stati dei brogli nel giuoco del dialetto, stiamo provvedendo a licenziare Lidia, tranquilli. Adesso vado dalla Stefanina a confrontarmi. Ormai è andato ad Arezzo, vi lasciamo con lo zoo, ci risentiamo domani con 13 BM! Ciao Alberto da Bologna. Su 105 c'è 13 PM. Su 105 c'è 13 PM. Aspetta, chi lo fa? Chi lo fa? Dai, l'uomo gonfiabile, dai, l'uomo gonfiabile. Ehi, dov'è? Ma sei tu l'uomo gonfiabile? Dov'è l'uomo gonfiabile? Sì, lui è l'uomo già gonfio, non è gonfiabile, l'uomo gonfiato. No, no, lui è l'uomo gonfiabile. Aspetta, scusa, dai, scusate, ma fra i tre, quello che sta ingrassando come un maiale sei tu. Non lo nego, io ho perso 10 kg. Non lo nego, tu ne hai guadagnati 7. Tu stai cercando di cambiare discorso, ma tu hai appena mandato sulla chat dello zoo una roba, una cianfrusaglia che solo tu potresti comprare. Non entrare in questo discorso, perché quando io lo dirò, tu farai la figura del coglione fra tre anni e sono il numero. Allora aspetta Marco che lo aiuto a dire il segnale orario. Aspetta, vai. Sono le 14. Attenzione, in questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale. Pochino. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Ma che l'invidia è una brutta bestia, eh? Sì. Ed eccoci nuovamente in onda con lo Zoo di 105 su Radio 105. Oggi special guest un cazzo di nessuno. Bene. Siamo in zona rossa. Come sto andando, Mazzoli? Benissimo. Grazie, fratello. Tutto bene nella città che sta sprofondando nell'oceano? Sì, no. Sì. Ma sì, a te che cazzo te ne frega? Tu hai la DeLorean. Giusto, sì. Tu pensi di prenderci per il culo, vero? Vedrai. Per ora non ti dico nulla, ma vedrai. Paolo Noise e Fabio, pronti? La crema. Sì. Pippo? Sì. Eccolo. Ok, allora sparaci la sigla a 88 miglia orari. Prima. Casse bastardo. Casse. Ma le casse devono essere vere o gonfiabili? Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia. Marco, spera che lo facciamo due soldi perché io e te li finiamo in 14 secondi. Mamma mia, la peppa. No, fidati, fidati. Io e Paolo, purtroppo, abbiamo delle malattie brutte. Io e Paolo, devi sperare di tardare più tardi possibile il mio trasferimento lì perché diventa un disastro. No, allora aspetta, però coinvolgiamo anche gli ascoltatori perché devono sapere quante stronzate. Noi facciamo un pre-zoo che dura più o meno un 20 minuti prima della sigla, dove ci facciamo delle carognate. Ci insultiamo gratuitamente anche, poi. Ultimamente anche dopo la diretta, tipo non so, quando dobbiamo registrare delle scenette per il giorno dopo, magari siamo solo io e Paolo in studio. Ieri la divagazione della moto, allora, sono andato a fare questo giro con i miei amici un po' anzianotti che hanno tutti queste Harley gigantesche con le casse sì, con i ricchi e poveri. Ricordiamo che invece tu hai una moto vintage della squadra. Una merda. No, era bellissima finché non hai visto i tuoi amici con le moto con la musica. Allora, io ho sofferto tantissimo perché domenica scorsa abbiamo fatto sto giro in moto e tutti ascoltavano, sai, tipo Born in the USA con le casse a tuono. Sì, hanno queste armi. Svalvolati on the road, sì. Street Glide, sai, quella che è un salotto praticamente su ruote. C'è anche la Ferilli dietro. Sì. Allora, mi ha sempre fatto cagare quella moto. Cioè, esteticamente è un po' una roba da. È proprio da cinquantenne. È un'ape a due ruote. Sì, è un po' esteticamente, non è proprio la moto più bella del mondo. modo. Poi, tra l'altro, detta da loro che hanno speso 20-30 mila dollari per comprarla, mi dicono è un cancello. Dicono la roba. Allora, va pianissimo, pesa una cifra, è brutta esteticamente. Però alla fine dice: questo mio amico ha tipo 7 moto, bellissime, tutte europee, velocissime. Dice alla fine io non lo so, provo una libidine perché ho le casse. Ma perché è un settantenne? Allora, facciamo seccare la fica ancora di più alle nostre ascoltatrici. Stiamo parlando di un Harley Davidson, okay? moto tipica americana, che per farci capire è quella che c'ha quel cruscottone enorme con le casse. Quella brutta, però c'ha le casse, lo stereo e il navigatore. No? E io vedere questi qua che programmavano, allora dobbiamo andare là con la musica a tuono, io con sta motoretta di merda. Ma i tacchetti da cross, ma i lifti sulle buche. No, ma aspetta, ma non sei l'ultima. Allora, si è rotto il motorino d'avviamento, ovviamente in viaggio. Spinta! Sì, ogni volta che si fermavano io, no, devo spegnere loro, vabbè, dai, ti spingiamo. Avevi visto un gruppo di vecchi che spingeva sto rottame. Porca puttana. E lì Stefania ha visto ancora il tetto che sta un po' vacillando. No, allora, io vi dico, allora, DeLorean non l'ho presa, ve lo giuro sul mio cane che sapete quanto amo. Però la moto con le casse. Allora ho iniziato a inzigare, siccome costa molto meno, usata, la trovi a poco, e allora ho iniziato. Ho mandato la foto alla persona sbagliata. No, mia moglie proprio niente, non vuol sentire nulla, lei tegole, basta. Perché tua moglie c'ha un concetto tipico genovese, no? Sì, perché anche Alisei ragiona così. Dice, la moto ce l'hai? Sì. Allora basta. Finché non muore, usa quella. Hai bisogno delle casse? Comprati un iPod. Soprattutto non è divertente passare le serate in casa con i secchielli, perché sai che ho il tetto un po' malandato. Non è una bellissima scena, no? Uno dice, cazzo, vivi a Miami, chissà che villa della Madonna. No, la villa vecchia della Madonna ce l'hai, soltanto che c'è i buchi nel soffitto. Ma non è una villa della Madonna, è una casa americana. È una casa degli anni 50 che ha subito un sacco di uragani, quindi ha un po' di problemini, insomma. Sì, diciamo, ti devi appoggiare alla parete a mettere la scarpa. No! Non puoi attaccare quadri, solo poster. No, allora, se ti appoggi alla parete sei in giardino direttamente. Dici, cazzo, ma passi dall'altra parte dei muri, Ma sai, scusa, questa è una domanda che voglio fare a te che sei in America, ma gli americani in generale. Perché gli americani nelle zone in cui ci sono gli uragani di merda costruiscono di legno? Nei posti dove non succede un cazzo, cemento. No, allora, Miami le case sono costruite di cemento, i muri intorno sono di cemento armato. I muri perimetrali. Esatto, all'interno dicono che cazzo me ne frega, cioè non è che il vento non è che soffia dentro casa, allora risparmio e fanno i muri in alluminio con il cartongesso. Sì, allora con la carta da forno. Un mio amico mi fa, oh vieni, lui fa il costruttore, vieni, ti faccio vedere, stiamo costruendo questa casa bellissima, vado a vedere, fa, abbiamo tirato su intanto i muri che delimitano le stanze. Lego. Sono ste lamelle di alluminio e poi li applicano sopra, gli mettono i tubi in mezzo e mettono il cartongesso. E loro dicono, ma scusa, si rompe un muro, si rompe un tubo, si rompe una... È un attimo, togli il pannello, sistemi e lo rimetti su. Prendi il rotolo, quello per mettere il pollo in frigo e aggiusti. In California invece le fanno di legno le case per i terremoti, quindi in teoria il legno dovrebbe essere più leggero, sopporta di più le vibrazioni e poi se ti cade una casa di legno in testa è meno grave di una casa in cemento armato. Ma poi ci metti anche meno a ricostruirla, nel senso che non devi portare via i materiali inerti. Però solo allora che brucia con uno starnuto. Cioè, tu sei però, un MS. Tu hai sbagliato zona, Marco. Quella zona dove vivi è sbagliata. La zona più bella di Miami è Lincoln Road. No, allora lo dico, prima o poi finirà sta pandemia e prima o poi la gente tornerà a viaggiare. Io leggo messaggi di gente che sogna di salire su un aereo, andare in qualche posto a rilassarsi. Secondo me a fine pandemia, speriamo entro l'estate, insomma, dicono qua che ormai sarà tutto finito a luglio. La stessa cosa anche in Italia. Diciamo ad agosto si può tornare a volare, ok? Allora, non venite a South Beach, perché l'unico coglione che ha investito quello che non aveva con firme false è Paolo Noyes. South Beach è una cloaca, è diventata una merda. Allora, cioè, South Beach è un posto dove c'è la fica, la droga, la musica e le spiagge. Un po' Viale Ceccarini. Non è più così, Paolo. Le persone quando vogliono andare in vacanza vanno dove c'è la fica, la spiaggia, la droga e la musica. Non vanno nei grattacieli a Miami. No. Ma sì, Mark, come Las Vegas, la gente vuole andare sullo strip, non vuole andare nel posticino carino, tipico, capito? Ho capito, ma allora Lincoln Road è morta praticamente. Il sindaco finalmente si è svegliato, un vecchio rincoglionito, e si è reso conto che quella città, cioè quella parte della città, è rovinata da brutta gente, perché è frequentata malissimo, Paolo Noyes in primis. Questo che io l'ho presa con due scotch è una pallina di carta. Allora, tu stai parlando con uno che i soldi non li ha, Marco. Io sono il nuovo Silvan dell'economia. Io non... Come faccio? Non lo so. Mettimi la base! Com'è possibile? Perché nessuno mi viene? Com'è possibile? Non è possibile. Però Paolo, scusa, allora, io ti apprezzo molto. Stamattina lui ha iniziato a mandarmi foto di questa. Dico, oh, l'hai vista, Fabio? Neanche tu arrivi allora, a comprare. Un sabò. Scusa, lasciami allora, giustificare. Si chiama Wave Board. No, no, no, allora è una ciabatta. Un sabò, quale... come si chiama? Le spadriglias. Sì, le spadriglias. Soltanto l'innovazione tecnologica presentata al Salone della Nautica. Waveboat, praticamente la moto d'acqua si aggancia allo scafo e diventa il motore dello scafo. Allora, la moto d'acqua di Paolo costa 20 sacchi. Più quella merda lì costa 50. Sono 70 sacchi, ti compri una barca. Ma una barca tu vedi, bella, tu parli carina. Di denaro. Io parlo di carta e firme. Poi vediamo, Marco. Ma la vita è una, va vissuta. Io devo avere la Waveboat. È la tua. Io devo avere la Waveboat e venire fuori da casa tua a suonare col bitonale, cazzo. Ma non è la tua, lo capisci o no? Ma chi lo sa? Io, papà, ma non ditemelo, voi fate finta. Voi anzi, allora ogni tanto Fabio, chiedimi un prestito. Sì. Mi chiedi un prestito, guarda Fabio. Non è che ti balla un 10. Ce li ho investiti, ce li ho bloccati. Senti, comunque, visto che abbiamo parlato di questa città in cui vivo ma non conosco, perché io la vedo veramente poco, mi dai una base gioiosa, perché l'Italia è vero che in questo momento sta vivendo un periodo veramente molto brutto e difficile, però l'Italia ha realizzato un record di cui io sono molto orgoglioso, e questo veramente mi rende molto orgoglioso di essere italiano, perché l'Italia risulta essere il primo paese in Europa e se non sbaglio anche nel mondo in fatto di riciclaggio, non di denaro sporco, anche in quello. Ma dei rifiuti, cioè l'Italia ricicla il 79% dei suoi rifiuti. Grande, ragazzi. Ed è una roba meravigliosa rispetto all'America, che fa schifo al cazzo sotto sto punto di vista. L'America fa cagare, loro bruciano tutto, inquinano. In balcone addirittura. Sì. No, ma è una roba vergognosa, veramente. Io in questi giorni sto vedendo delle situazioni. Poi qua c'è lo spring break, che è questo periodo, è una mesata in cui arriva la fogna del mondo. Tanta fica. La fogna del mondo a infognare ancora di più questo gonnelline posto. Minorenni, mamma mia. Spazzatura, bottiglie, plastica. Gonnelline, minorenni, biondi, bikini, treccine. Siate orgogliosi, perché l'Italia comunque, essendo oggi... Cosa? No, niente, vai pure avanti, parla di rifiuti. Cosa hai pensato? Ho pensato gonnelline, treccine, fica. Scusate, tu vai avanti battendo il cazzo. Oggi è il World Recycling Day e l'Italia risulta essere il paese più avanti di tutti, quindi facciamo un applauso all'Italia. Non saremo buoni coi vaccini, ma... Cos'hai detto? No, niente. So di cosa stai parlando. Niente, tanto Fabio c'ha il cazzo sulla... Sto sbattendo il cazzo sulla trave, arrivo. Fabio, quanto daresti in questo momento per poter ciucciare una mammella a una con la gonnellina? Mamma mia, gonnellina, mutandine bianche, treccine. Ho bisogno di un altro cazzo da sbattere. C'è un po' la crisi della mezza, Fabio. Sì. Madonna, sì. Ma da quando avevo 22 anni però. Fino a prima o poi. Ma senti, ma il tuo percorso sessuale, cioè, è incrementato con la pandemia? Scopi più spesso, sì. Senti, scopi di più con tua moglie o ti fai più seghe? Perché sai che c'è La sega è quotidiana, nel senso. A meno che non ci sia in ballo quella becciata. Guarda che ci sono studi medici che sostengono che ogni volta che tu, diciamo, raggiungi il piacere, scarichi energia, per questo che magari sei stanco, sei un po' scoglionato. Stanco e scoglionato io? No, dovresti ogni tanto magari trattenere un pochino. Ma sei fuori, io ci alimento il palazzo. Abbiamo tolto i pannelli solari, mi hanno moltiplicato il wifi, la gente c'ha la lavastoviglie, lavatrice. Cazzo, che vanno sarebbe insieme. Bello però uno strumento che produce elettricità quando ti fai le io ci ricarico guarda, scusate, tornando al discorso delle case fatte col culo in America, un ascoltatore ha scritto esattamente quello che penso. Dice: dice: gli americani costruiscono le case come i tre porcellini, non conoscono le case solide. Ah, non costruiscono, sarà le case solide. Io ho visto ville da milioni di dollari fatte di compensato. Ma è vero. Sì. La roba. Mi sono scenografie. Mi sta chiamando il capo di Golden Goose. Salutamelo. Dillo che lui è qua. Lui è qua. Lui è lì. Sì. Lui è qui e tu no. Ma lui, lui è ricco, non so come faccio. Capito, non è ricco, c'ha un'azienda, è importante. Cioè, io sono stato consolato a 2 anni, scusi, no? Che scarpe meravigliose, che belle. Mamma, quanto sono belle. Guarda che roba, guarda la bellezza. Fanno sudare il piede direttamente dalla scatola. Aspetta che mi sta chiamando il capo di De Fonseca. Sì, è ancora lì. È ancora... Mi sta chiamando un operaio di Havaianas. Perché? Sempre più in basso. Comunque, vabbè, senti, parliamo invece di paesi che hanno ancora più problemi dei nostri, ovvero il Messico. Il Messico. E poi, tra l'altro, il Messico sta andando bene in questo periodo. Stanno vaccinando, i casi sono diminuiti. L'unico problema che hanno in Messico è A, che chiamano le macchine di lusso carro, e c'è cioè una roba che proprio. È la loro lingua, Marco. Non me ne frega un cazzo. Non puoi chiamare una Ferrari un carro, no. Sì, tua madre. Noi la chiamiamo automobile, devi guidarla. Se fosse automobile, si muoverebbe. Noi la Ferrari la chiamiamo Ferrari. Oh, no, guarda, è passato un ferro. Il ferro. Non è una macchina, è una Ferrari. È anche un cantante. La Lamborghini la chiamiamo Lamborghini. Lì passa una Lambo in Messico. C'ero in Messico. Oh, il carro. Ma tua madre. La Captur come la chiamiamo? Merda. Shit. No. Sì. No, investitore della Ah, Disney. Bellissima. No, la tua, mi riferivo alla tua. La tua. E poi i cani. Non puoi chiamarmi il cane, il perro. Ma perché? Scusa, ma no. È la loro lingua, il perro. Ma no, il perro. Perché dog che si chiama come un panino, dai. Ma è bello, dog, senti com'è, è una roba, dogui, ti viene in mente il doge, cioè è bello, il duca, no, il dog, il perro. E poi fanno le serie televisive, io non so come fanno le vecchie beghine italiane a passare ore e ore davanti alla televisione a guardare queste storie che non stanno mai in piedi. Una sola mi ha colpito, che è quella di Rosalinda, perché lei è una bella ragazza, ma purtroppo è in putrefazione, è una roba, cioè ormai siamo arrivati, questo è il punto di svolta, ragazzi. Qua capiremo tutto, ed è tutto tratto dalla storia vera di Rosalinda. Attenzione, ci colleghiamo. Puntata importante, vai Pipuzzo. Lo Zoo di 105 presenta Rosalinda. Nella puntata precedente. Guarda, sono andata alla discarica a prendere un reggiseno nuovo. Che dici, mi sta bene? Ma quello non è un reggiseno, sono due topi morti legati per la coda. Esatto, molto creativo, vero? Sento che sta per lanciare una nuova moda. È vivo, uno dei due topi. Questo apatico bastardo. Nella puntata precedente. Rosalina, non allarmarti. Ma c'è un verme. Ma perché poi lui continua ad avere un rapporto con questa persona? Vai via. Perché? Snobba la cazzo. Nella puntata precedente. Oh, cazzo, il canarino è smuerto. Stavo per dire la stessa cosa. Questo può significare solo due cose, Fernando. O c'è una fuga dei gas in corso, oppure Rosalinda è a meno di un chilometro da qui. Porca troia. Stavo per dire la stessa cosa. Fernando, eccomi. Scusa il ritardo, ma il camion della spazzatura non passava più. No, io sto solo soffrendo, scusate. Non è che ha parcheggiato qua davanti, no? Sicura? No. Che non è fermo qua sul marciapiede? No, non c'è nessuno a fare. Devo dire, Rosalinda, che oggi la tua puzza è ancora più stomachevole del solito. Stavo per dire la stessa cosa. Ma non dirlo, tieni il naso tappato tu che vuoi. Oh, Fernando, mi fai arrossire così. È impossibile, non si vede attraverso lo sporco, cioè. Grazie per avermelo detto, ma... Se mi arriva troppo sangue nelle guance, il parassita che vive nelle mie gengive... Se mi arriva troppo sangue nelle guance, il parassita che vive nelle mie gengive potrebbe risvegliarsi. Sì, infatti sono preoccupato anche io. Ma perché non usciamo all'aria aperta, eh? Voglio che tutto il mondo senta l'odore del nostro amore. Che ti amo. Romantico però, Che ti amo. Che te amo. E che solo penso in ti. Oh, Fernando, mi sembra di sognare. Io e te, mano nella mano, a passeggio per la città. Eh sì, solo che mi stanno cadendo tutte le unghie di quella mano, eh. Però non importa. Il tuo effettore mi ha rapito il corazon, Rosalinda. Io ti amo e ti amerò sempre. Aia. Oh, oddio, un temporale! Mi sto bagnando tutta! Per Giove, ma... ma non bussi più! Non sento più la tua bussa! No, no, Fernando, cosa dici? Aspetta, parliamone! Rosalinda, io credo che non sono più sicuro dei sentimenti che provo per te. Come? No, come? Credo che sarebbe meglio che ci prendessimo una pausa. Ma come? No, Fernando, non farmi questo! Posso puzzare di nuovo? Ma che cosa? È colpo di scena, è colpo di scena. Posso puzzare di nuovo, te lo giuro! Posso puzzare per te, puzzerò, te lo prometto! Non fare scenate davanti a todos, Rosalinda, dai! Io vado a casa ora. Lasciami i miei spazi. Me faccio sentire io, con calma. No, no, Fernando, non te ne andare. Torna indietro. Posso puzzare. Guarda, ora mi cago addosso. Non è caso, Rosalinda, mi fido sulla parola. Non perdere la prossima puzzolentissima puntata di Rosalinda. L'amore, l'amore, l'amore, l'amore, l'amore è così. Si spiegano un sacco di cose. Si spiega perché Paolo ha una moglie molto bella, vero, capisci? Cioè, l'amore, l'amore, l'amore, no, è cieco. Beh, quella è la follia. No, lì è il limone ogni mattina che gli spremi negli occhi. No, ho scoperto questa sostanza che disciolte questo gas. Piccole, piccole dosi da 11 anni la rendono quel minimo di folle. Che vabbè, se comunque. Vabbè, ma credo che sia un problema un po' comune, qua. A parte Pippo Palmieri, no? Puttaniere che... di cosa? Vai. Ma... sai che tu sei la persona più infame che io conosca. Ma perché? Vero, ma perché di sì? A parte adesso che c'hai sto potere che mi puoi chiudere il microfono, quando ero a Milano non potevi farlo, bastardo, avevi paura. No, lo facevo anche a Milano. Lo facevo anche a Milano, ti abbassava il cursore. Poi tu mi picchiavi praticamente sempre, mi spaccavi la spalla. Però. Tu chiudevi, io riaprivo. Qui invece tu mi chiudi e non posso più riaprire. Esatto. Sei impotente, Senti, allora parliamo velocemente di Biden, il vecchio pazzo che ha detto che Putin è un assassino. E Ale. Guarda, io non lo so. Allora, Trump era una testa di cazzo e su questo non ci piove. Sì. Però durante i suoi 4 anni non c'è stata una guerra, anzi neanche ha svenduto l'America a chiunque, tranquillamente. Allora, c'è la figlia di Kim Jong-un, lì, quello della Nord Corea, Gangnam Style, che ha fatto una dichiarazione, la figlia, e neanche il padre, proprio gli fa il padre, ma il padre è morto. Ah, è morto il padre? Secondo me sì, ragazzi. Ma se fa parlare la figlia, neanche il figlio maschio, la figlia femmina, vuol dire che proprio si sono esauriti. Ma sì, dai, è morto un anno fa, dai. Ma non è morto, dici di Covid magari? Secondo me è morto. No, di Covid non lo so, però secondo me è morto. Non si vede più da un anno. È morto di risate. Sì. È morto di benessere. Comunque la figlia ha detto agli americani: fate attenzione perché mi avete rotto il cazzo. Quello che sta facendo l'America con il Sud Corea, eccetera, ci sta facendo girare i coglioni. Abbiamo già i missiloni. Qui non c'hanno un cazzo a fare tutto il giorno. Cioè, quello c'ha 2.000 miliardi di missiloni puntati verso gli Stati Uniti. Cioè, che cazzo da fare? Ma scusate un attimo, ma queste persone si rendono conto che se lanci un missile atomico finisce il pianeta? Cioè, ma che minaccia è? Ho capito. Come quello che stanno giocando a pallone, no, la palla è mia, me la porto l'atomico via. L'atomico no, l'atomico no. Ma secondo te il Sud Corea manda un missile a Biden e Biden gli risponde con le micette? Allora, cominciano con i Tomahawk, perché si va per gradazione, se no finisce prima subito. prima le micette, si lanciano le micette. Innanzitutto chi ce l'ha i diritti? Chi la trasmette? Perché si metteranno d'accordo prima su questo. Dove va? Su Netflix, su Sky, su Prime? Cioè, Biden, minchia, proprio gli è partita la brocca al vecchio bastardo, minchia, si è girato un zitto. Ma perché i democratici sono guerrafondai, lo sai, è sempre stato così. Adesso sì, ma se l'è preso con quello grosso, è pazzo. Allora, scusate, io stamattina ho letto un paio di giornali. C'è chi dice che Biden abbia bisogno di un'arma, come al solito, di distrazione di massa, per non occuparsi di alcuni problemi interni, tipo abbiamo fatto la campagna elettorale su apriamo le frontiere, accogliamo tutti, adesso hanno dovuto chiudere perché ogni giorno cercano di sfondare la, la frontiera dal Messico 100.000 persone, e quindi sì, ci sono un po' di cazzi anche certo, tutti questi bambini, ah no, i bambini nelle gabbie, brutto brutto brutto, oh, brutto, poi, brutto, ragazzi, ricordatevi 97.000 al giorno, dove me li metto? Come hanno risolto le grandi crisi globali? Con le guerre. Con le guerre inizia a girare la fresca, iniziano a dare lavoro a tutti e poi non sanno cosa fare. Cosa fanno in Afghanistan? Sta lì ancora o tornano indietro? Poi hanno dato veramente un sacco di soldi sia per i vaccini che per i ristori. Però questo ha aumentato l'inflazione. Però il discorso, la guerra fredda con i russi mi è sempre piaciuto. Cioè, noi abbiamo vissuto il 1985 alla grande, era bellissimo vedere queste due potenze mondiali che litigavano fra di loro. Aspetta, che Putin ha appena risposto. Putin a Biden, assassino io. Chi lo dice sa di esserlo? Chiuso! Veramente! C'è stato chi lo dice sa di esserlo, no, chiuso! Puccioli, dai conferma di questa tu cosa. Tu ha chiuso! Sì, sì, è confermato. Cioè, così è il titolo dell'ANSA. No, molto ridere, sembra proprio la cosa tra bambini. Lo... veramente no, chi lo dice. 10 volte più di te, tra l'altro, no? Perché chi lo dice sa di esserlo. Chi lo dice sa di esserlo. Bellissimo! Tu ha chiuso! No! Però, no, però oh, puoi dire il cazzo che vuoi, ma quanto è bello Putin. Putin è proprio. Beh, è bello. Quando è cavalca gli orsi nella steppa. Madonna, lui è troppo bello. Bello, tutto scolpito, è bellissimo. Sì, un po' di Photoshop. Andiamo a vivere in Russia, ragazzi. Dai, andiamo a vivere così. Fate contento. Tu è Lambenedetto. Tua madre. Minchia, sai che. Allora, Lambenedetto, io gli voglio bene, un caro ragazzo. Sì. Però ha il problema, ha il difetto che ripete le cose tre volte. Ma ti dice: sono stato in Russia, sono stato in Russia, sono stato in Russia. Oh, si sta bene in Russia, si sta bene in Russia, si sta bene in Russia. No, perché ti dico che comunque il mare è bello. Vedi mare che sei bello, stupido, mare perché Lambenedetto sono tre. Sì. Cioè, sono tre gemelli che parlano di tre. Dicono un pezzo di frase a testa. Ma l'incredibile è che si ripete anche nei messaggi. Cioè lui sì, non è solo a parole, capito? Scrive tre volte le stesse ti cose. Ti manda tre volte lo stesso video. Ma ho, uno provato, sotto l'altro. Ho provato la libidine di dirgli: no, guarda, non sono d'accordo con te su una roba. Che mi ha sommerso di video, messaggi. Non puoi mai dirgli che lui sbaglia perché si incazza. Però si informa, comunque, ti fornisce. Sì. Torniamo al punto di partenza. L'Italia risulta essere il paese che ricicla di più nel mondo. E questo è un grande orgoglio. Oggi è il World Recycling Day. E noi abbiamo un ecologista con cui ci colleghiamo oggi. Di cosa, perché calzolaio? Scusa, cosa c'entra il calzolaio? Perché ha avuto l'ecologia? Una bella idea per riciclare la plastica. Sentiamo. Colleghiamo. Il nostro pianeta sta morendo. Soffocato dal nostro stile di vita. Un mite diplomato della periferia milanese, a cui manca da tanto tempo la fica, decide di fare qualcosa. E dopo un aperitivo importante, fissando il secchio dell'immondizia prima di rimettere, si arma di caparbio ingegno, dando il proprio contributo per cambiare le cose, senza che nessuno glielo abbia chiesto. L'ecologista. Uno che non sta a guardare. Secondo un recente studio del WWF, ogni anno solo nel Mediterraneo fluiscono 570.000 tonnellate di plastica con un impatto devastante sull'ecosistema marino e sulla nostra salute. La situazione è ulteriormente aggravata dalla dispersione nell'ambiente di mascherine e guanti impiegati per contenere la pandemia da Covid-19. Tutto quello che è un materiale solido prodotto o trasformato dall'uomo che viene perso, viene abbandonato nell'ambiente e quindi non solo in mare e che poi arriva in mare attraverso tutta una serie di percorsi dal vento, i canali, le piogge, i fiumi soprattutto e così via. Quello che si vede è che a parte la plastica essere l'84% del totale degli oggetti trovati, gli oggetti non uso sono circa il 50%. Il ruolo del consumatore è fondamentale. Le plastiscarpe. Pronto? Senta, siete un'azienda che produce scarpe? Sì, mi dica. Sì, salve, l'ho chiamato ovviamente per la produzione di scarpe. Allora, salve, io mi presento, sono l'ecologista, mi occupo appunto di ecologia, sono attivista. Ho brevettato un modello di scarpa particolare, volevo capire se voi eravate in grado di realizzarla. Cioè, nel senso, bisogna capire com'è questa scarpa. Beh, questo mi sembra un buon punto di partenza, le spiego. Secondo me oggi è la giornata mondiale del riciclo della plastica. Io mi sono affrettato nella realizzazione di questo progetto, che è la plastiscarpa. Praticamente, lei ha presente le classiche bottiglie da litro e mezzo di plastica? di plastica, sì, di acqua, no? Classica, no? Sì, sì, di aranciata, sì, qualcosa, Fanta, Sprite, insomma, quello che beve lei. E vengono praticamente realizzate con una fascia elastica che le fa aderire al piede come una sorta di ciabatta. Secondo, secondo lei questa plastiscarpa è realizzabile? Io adesso non ho manco ben capito quello come potrebbe essere realizzata con una bottiglia, non ho capito. Sì, sì, praticamente io le porto questi camion ricolmi di bottiglie da riciclare dove li premiamo a pressa in modo che la bottiglia di plastica assuma una superficie piana quasi ergonomica, quindi con una pressa che gli dia la forma del piede da una parte, essendo la plastica comunque scaldabile con una pressa a calore che gli dà la forma del piede. Pazzo. Poi gli applichiamo la classica fascia sempre con materiale riciclato da non so altre materie plastiche, la parte superiore che la ferma al piede, un po' come la ciabatta per andare in piscina, per farle capire. Però fate con la bottiglia, quindi teniamo la parte del collo della bottiglia davanti, che è la sua particolarità della plastiscarpa. Le scarpe, poi le plastiscarpe possono essere anche non abbinate, quindi una magari di acqua Evia e l'altra di Coca-Cola. Nel mio ragionamento il tappo lo teniamo perché, volendo, la plastiscarpa può essere riempita a sua volta di un altro materiale che la rende, non lo so, galleggiabile, per camminare sull'acqua potremmo fare la versione Jesus, la plastiscarpa Jesus, e si può anche, diciamo, cercare di rimanere a galla. Cioè, poi c'è tutta un'idea di marketing alle spalle. Cioè, pazzesca. Sì, ho capito l'idea qual è. Con le bottiglie da mezzo litro si può fare anche la versione femminile. Mi ha dato anche un'idea, guardi, è stata illuminante. Ah, certo. Guardi, parlando con lei mi sono venuto un botto di idee. La ringrazio, mi scusi se l'ho disturbata. Salve. Salve. L'ascolta. Pronto? Salve, calzolaio? Sì. Ma che bella voce. Praticamente io ho brevettato la plastiscarpa, che è una scarpa fatta con bottiglie riciclate di plastica. La plastiscarpa. Lei è in grado? No, ma il problema non è che non è in grado, il problema è avere la pezza a caldo. Questi noi non ce l'abbiamo, le pezze a caldo, capito? E se sto tanto coi piedi al sole? No, sì. Le soluzioni. Dice che non funziona. No. Sai, io so che lei è in Calabria, quindi in Calabria c'è un caldo incredibile. No, veramente sono a Milano, sono in Calabria. Ah no, io sento questo accento calabrese fortissimo. Lo so che l'accento è l'accento calabrese, però sono a Milano. Ma lei è a Milano? Da quant'è a Milano? Un quarto d'ora? Che è appena sceso dal treno. Senta, allora, visto che a Milano potrebbe essere interessante, al limite potrei mettere della benzina sui piedi e scaldarle coi miei. Ma delle calze ignifughe. Il problema è avere la forma e poi a caldo e fare la forma della ciabatta, capito? Il fattore qual è? Anche perché io poi pensavo di preservare anche il tappo apribile e richiudibile, perché se ho pensato che opportunamente gonfiato potrebbe anche sorreggere il corpo umano sopra l'acqua, quindi fare una versione plastiscarpa Jesus. La versione Gesù della scarpa, in modo da poter camminare sulle acque. No. Ci vorrebbe una pressa proprio a caldo che prenderla, fa lo stampo della scarpa. Scusi, io esco un attimo dal personaggio perché io sono sconvolto. Sono sconvolto dalla sua gentilezza, lei è disarmante. Lei è stato un quarto d'ora a sentire un pazzo che le parlava di fare delle scarpe con le bottiglie di plastica con una cordialità che mi ha spiazzato, mi perdono. Grazie. Cioè, lei dovrebbe moltiplicare il pane, lei è il Gesù calabrese delle scarpe. Cioè, non è possibile che abbia una pazienza del genere nei confronti. Lei doveva mandarmi a fanculo dopo un minuto e quattro. Ride felice. Vedi, c'è futuro per l'umanità. Era palesemente ubriaco, questo si è percepito. Ma no, l'ecologista. Uno che non sta a guardare. C'è delle idee brillanti. Ma guarda che scrivono: ma è geniale, metti la bottiglia nel piede con un phon, la scaldi, la rendi aderente al piede. Geniale. Scusa, ci sono le Nike Air, perché non ci possono essere le Nike Water. Bellissimo. Sai che linea che deve fare? Sai che adesso vado di là, prendo due bottiglie di plastica e le faccio leghiamo al piede. È impossibile, con la tua moglie l'ha già depositata, devi pagare lei. ragazzi, a volte non vi capisco proprio. Vi siete fatti il culo per un mese. Avete scritto delle meravigliose canzoni per San Jimmy, montato dei video da paura. E adesso non spingete questo meraviglioso prodotto su Spotify? Dai, ricordatelo a tutti che possono ascoltare le 10 canzoni su Spotify e che da venerdì possono anche acquistare la compilation su tutti gli store. Andate anche su 105 sulla pagina di Instagram, che c'è un video che ho fatto oggi per il giorno del riciclaggio della plastica e robe varie, che è l'ultimo che farò per loro, poi basta, ma mai più proprio, ma mai più. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia. Con Wonderland, Polaroid, i super erotici, vinci chi hai vinto tutto, è qui lo Zoo di 105. Wonder in my eye, blowing up my mind. Untangle all the ways I feel inside. Lighting up my world in ways that I can tell. Liberty, cause I'ma be the one that frees myself. Holding on in my senti tutte le mattine chiare, fresche e dolci acque. Lo so, mi spiace ragazzi, cosa posso fare? Io sto chiuso in ufficio apposta per non farvi stare male, lo faccio apposta. No, questo perché sto sei qua... una persona anziana e noiosa. Ma no, tua madre è quella pelata. Ma madre è anziana e noiosa, purtroppo, ma è anche giustificata, 74 anni. Scusa Fabio. Se uno c'ha 50 fiche in un harem tutti i giorni della sua vita, ci stufa. Però si stufa. Sicuro? No, ti dispiace se provo. Ti faccio l'esempio del ristorante buono sotto casa. Quando tu sai di avere il ristorante buono sotto casa, dopo un po' ti rompi coglione ad andarci. Sai che è lì e dici vaffanculo. Lo so, io preparo la cena, non vado al ristorante. Ma tu sei un barbone di merda. A me piace cucinarmi le mie vivi cose. Vivi in un sottotetto con i piccioni, con le travi di legno. Sono in centro a Milano, vista Madonnina, però. Ragazzi, l'altra sera c'era la Madonnina, stavo facendo la trevigiana, mi fa me dai una forchettata, glielo posso dare alla finestra. Non è la Madonnina, è una barbona che vive sui tetti insieme a te. È d'oro e vive a 12 metri d'altezza. Non è oro, quello è sporco. Vabbè, comunque va bene così. Allora, l'importante è che ognuno di noi sia convinto di ciò che vive e vede. Bello, no? Bello. Paolo Noyes è convinto che comprarsi una ciabatta dove infilare dentro la sua moto d'acqua sia una barca. Sì, wave boat, andate a vedere. Bellissimo, proprio una roba bella. Proprio. Frigori, il salone nautico è andata fortissimo. Ha vinto il premio. Sì. Ma senti, premio Funari ha vinto. Ma cosa fai poi quando hai finito di usarla? Entri dentro il culo di un SUV e guidi tutto tutto insieme poi. No, lui fa, con la bocca bello, fa, però, sì. Fa Optimus Prime a posto e si parcheggia da solo. È una scelta meravigliosa. Ma no, no, è una roba da barboni, proprio lascia stare. Cioè, buria la barca. Buria, ma non posso. Ma cioè, non è vero. È la barca, sì, c'hai la barca. L'hai sia la moto d'acqua che la barca. Ma non ho capito, però, è Transformer o Decepticon? È Transformer. Ah, ok, no, quindi è dei buoni. Okay. Esci con la moto, c'hai gli amici, agganci. Per spiegarlo agli ascoltatori che magari non hanno modo di cercarla online, non fatelo perché vi rovina la giornata. È una roba veramente una tristezza pazzesca. Se sei indietro come il culo del canguro. È un ferro da stiro che assomiglia vagamente alla prua di una barchina di carta e tu praticamente con la moto d'acqua ti incastri dentro. Entra e la moto d'acqua diventa il motore della barca. Quindi tu sei uno scemo che guida la moto d'acqua mentre gli altri sono tutti schiacciati su questa robina. Poi ti fermi, butti l'ancora, sganci la moto, gli altri si ammazzano di prosecco e tu fai lo stronzo. Gli altri affondano. Ho capito. No, scemo. È un parabrezza. È come fosse un enorme parabrezza. Sì, enorme. No, è una barca che utilizza la moto d'acqua come propulsore. Però è sganciabile, tipo il tappo della Bic, cioè sì, la moto d'acqua. Sì. Cazzo, ma non è male come idea. È un'idea della Madonna, sì. Comunque, c'è il frigorifero, vabbè. Tutto. Vabbè, comunque fai quello che c'è vuoi. C'è anche Paolo. Per la Vespa? Ma io lo farò, Marco. Ma lo so, poi viene da te e ti dice: fa cazzo, fa, avevi ragione. Mai detto, mai speso 50.000 euro di mai tappo della Bic. Non ti ho mai. Poi ogni tanto viene fuori. Sua moglie dice: ma perché non ascolti Marco? Ma scusa, no, ma Marco era quello che mi ha detto da 20 anni. Marco era quello che mi ha detto: comprati la mattina usata di merda, tanto la usi poco. E infatti, però è lì che me la chiede in prestito, hai capito? Ma no, scusa Fabio, ti prego, intervieni. Allora, quante volte l'hai usata la moto, Paolo? Quante onesto, quante volte? Tutti 5? I giorni per 3 mesi. Ma che cazzo dici che l'hai comprata 20 giorni prima di partire? Tutti i giorni per 20 giorni prima di partire. 20 giorni, perfetto. Adesso da quant'è che non la usi? Quanti mesi sono che sei in Italia? Sei mesi. Quindi scusa, tu hai speso $1,000 al giorno. Esatto. Ma sei un coglione. Oh, meno male. Meno male. $1,000 avessi... al giorno l'affittavi. Ma infatti gli ho detto: prenditene una usata. Poi quando ti trasferirai qua, se mai riuscirai a farlo, barbone di merda, allora magari te la compri nuova. Però io ce l'ho più bella della tua. Sì, ma in un parcheggio. Sai che adesso ci metti anche le casse. Però io, allora... io ce le ho le casse. Allora Fabio, anche sulla moto d'acqua, no. Fabio, lo faccio per te. Lo faccio per te. Io, guarda, giuro, oggi cerco di uscire presto al lavoro. Mi salgo in moto d'acqua e passo la giornata a fare gli 8 nella baia. È quello che hai fatto, faccia di merda, quando ero lì. È tutta colpa tua, sei tu che mi hai caricato a molla. Come io ti farò comprare l'Harley con le casse. Ma non compro l'Harley con le casse. Tu comprerai l'Harley con le casse. Tu devi comprare, Marco, l'Harley con le casse. Puoi fare la wave car davanti a una forma di Ferrari che però si guida con la Harley Davidson. Così glielo metti in culo su terra. La wave ferro. Ieri è venuto qua questo mio amico, quello dei vini, e continuava: dai, andiamo all'Harley, dai, andiamo. Ma sei scemo, no? No, mia moglie, fai quello che vuoi. Sai quella... fai quello che vuoi. Che vuol dire t'ammazzo 3 volte sì, bastardo. Sì, esatto. Senti, invece, leggendo un po' di robe, allora, intanto, giusto, Netflix ha capito finalmente che tra l'altro non è una soluzione quella di Netflix. Siccome inizialmente Netflix adesso ha 200 milioni di abbonati, voleva che in famiglia si condividesse l'account, no? Certo. Perché così incentivavi le persone a guardare la loro piattaforma. Cosa è successo? Che non era più una roba di famiglia, ma di amici, tipo: io ho l'account Netflix, Fabio, vuoi le mie password? Lo guardi anche tu. E quindi hanno diffuso la visione di Netflix a milioni di persone che non pagano l'abbonamento. Cioè c'è uno stronzo che paga e gli altri che guardano. Però non puoi vederlo insieme. Cioè se uno lo sta usando, l'altro non lo può vedere. Sì, certo, però dai, guarda solo noi, per esempio. Il fuso orario, io la sera lo posso guardare, tu stai dormendo e viceversa. Quindi già lì potremmo diffondere il nostro. Come no? La camera 1522 di Marco Sailand che sta guardando il mio Netflix. Veramente? Sì. Ma dove, scusa? Ho messo le password, ho messo Netflix in camera d'albergo quando sono andato. E l'hai lasciato lì aperto? Mi sono dimenticato di levare. Quindi c'è uno che prende quella camera e gli piace tutto il Netflix, che cazzo vuole? Non ci credo. Ma no, quando ti colleghi tu, l'altra si stacca, no, credo. No. Allora, io so per esperienza personale che uno solo lo può guardare, quindi il primo che guarda... Io ho l'account family e lo possiamo vedere in 4 family. Dispositivi. Cioè, okay, no, se mia moglie sta guardando Netflix, io non posso guardare Netflix su un altro dispositivo. Beh, adesso hanno deciso di mettere un PIN, quindi legato al tuo cellulare, quindi ogni volta che tu accedi ti manda un messaggio. Però scusa, cosa cambia? Palle. No, scusa, ma non cambia un cazzo. Allora, tu accedi, mi arriva il messaggio, ti mando il PIN e tu ti colleghi lo stesso, non cambia niente. Però io penso che non sia giusto dal punto di vista giuridico, perché io pago Netflix per poterla guardare 24 ore su 24, giusto? Ok. Quindi io pago a consumo. cioè pago la trasmissione in streaming di contenuti per 24 ore. Se poi li guardo io, Felice, Pippo, Letizia o Gianfranco, sono cazzi miei. Sono cazzi miei, io ho pagato prima, cioè io non sto pagando a consumo quello che vedrò. Pago già prima di consumare. Non lo so. Quindi io quanto costa adesso? 7,99, 8,99, quanto costa? 9, quanto costa? 11 euro. 16, vero? Ragazzi, ma quanto vi fate calcolare? Secondo me ci facciamo più altro. Fammi le 16. Vabbè, diciamo 16. Ok, io il 16 ho già pagato la visione per aprile. Quindi quello che faccio di quello che ho già pagato sono cazzi miei, giusto? Però tu così, diffondendo le tue password, i tuoi accessi, praticamente fai sì che Netflix non possa avere nuovi abbonati e loro quello vogliono. No, è che adesso è diventata una figata, lo vogliono tutti. Però sì, secondo me un avvocato con una class action ti inchioda su questa roba qua. No, è vero, hai ragione. No, su questo hai ragione, però comunque, cioè, dire che è una figata, ormai ci mettono dentro veramente Pippo Franco che si lava i piedi. Hanno fatto una serie sui Dark Polo, hanno due ore di storia, cosa? Basta, cioè due ore di storia in totale, la loro vita. Beh, hanno allungato poco le sigle. Cosa fai vedere? Cioè, che poi tra l'altro è anche un cattivo esempio. È perché Netflix è molto young oriented, cioè nel senso ma anche young. Ha un pubblico molto molto giovane, per quello vanno un sacco quelle serie dove si sbaciucchiano adolescenti nello spazio, cioè quella roba lì. Vabbè, ma siamo arrivati veramente a un livello in cui io ho guardato tutto quello che era bello da guardare e poi bacia. Sai cos'è? Sono le serie tedesche ambientate nello spazio che un po'. No, sì, non è vero, The Dark è stupendo. The Dark è stupendo. No. Oh, comunque allora ieri ero a casa da solo, cercavo di guardarmi un film. Allora, i film belli, quelli tipo degli anni 80, devi pagare per guardarli su tipo su Amazon, no? E dico, scusa, ma Ritorno al futuro 2, che non l'ho visto forse sei mesi fa. Devi fare Prime, scusa. No, io c'ho Prime, ti fanno pagare $3.99. Perché adesso finisce diversamente. Sono cambiati tutti i finali. Paga, vedrai che ho ragione. Dare una gamba per vedere una nuova versione. Comunque, ragazzi, a proposito di Amazon e Netflix, noi vi consigliamo una piattaforma molto migliore, costa un po' di più, ma ti dà veramente tanto di più. Si chiama Mamazon Prime. Ci colleghiamo, prego. www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali. Doccia orizzontale per persone gobbissime, 365 euro. Salotto d'atterraggio per tappeto volante, 500 euro al metro quadro. Dinamite antipanico, 9 euro al candelotto. Nastro isolante dei famosi, 6,30 euro al rotolo. Come può essere? Tazza del cesso kebab per defecare ruotando a 360 gradi. Bellissimo. Tazza del cesso kebab per defecare ruotando a 360 gradi a partire da 241 euro. Abbigliamento, scarpe e gioielli. Divano puzzle, scomponibile in 5.000 pezzi dello stesso colore, 575 euro. Latte di soia, munto a mano da vera vacca di tofu, 2 euro al litro. Io, me, i mene. Io, me, i mene. DVD porno softcore con ragazze vergini, 19,90 euro. Bello. Tovaglia impermeabile per tavola da surf, 7 euro. Il mio primo Dirty Sanchez, gioco in scatola che provoca il colera, 26 euro. Bello, lo voglio. Giochi e prima infanzia. Obiettivo hippie, giardiniere scopa begonie per generare figli dei fiori, 15 euro all'ora. Lordi. Ambulanza spara veleno, 19.000 euro. Educational, il mio amico trombo, impara ad ostruirti le arterie con la siringhina ripiena di pongo, 23 euro. Dannosissimo. Decathlon, iglu portatile composto da 2.400 bottiglie d'acqua, 1.440 euro. Subbuteo Christopher Reeve, praticamente una gara di macchinine, 68 euro. Arredamento interno. Bastardo. Scarpe e décolleté per donne con le tette sui piedi, 49 euro al paio. A aceto antiatomico, 9,90 euro al litro. Bambola gonfiabile matriosca, per farsi nonna, madre e figlia in un colpo solo, 87 euro. Bellissima! Oral et laboral, il calendario coi franicelli. Oral et laboral, il calendario coi fraticelli che si prostituiscono, 11 euro. Boomerang in plastica, usa e getta, e getta e usa, usa e getta, e getta e usa, usa e getta, e getta e usa, usa e getta, e getta e usa, usa e getta, e getta e usa, usa e getta, e getta e usa. www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti tranne quello che cerchi tu. Getta e usa, usa e getta, e getta e usa, usa e getta, e getta e usa, usa. Basta. Comunque Fabio, ti stanno massacrando tutti, eh? Cioè dicono che sei un barbone, perché tu hai l'abbonamento Barboni di Netflix. No, io non so neanche quanto è sulla carta di credito. Non lo so. Lui ha il Netflix mono, può vedere un film all'anno e basta. Ragazzi, cioè uno solo a destra però sente l'audio. Io sotto i tre zeri non so quello che va via dalla carta, non so voi. Vai a cagare, vai. Volete giocare al Vinci che hai vinto? Mandate ora un messaggio WhatsApp o un messaggio Telegram al 342 41 15 105. Il più veloce avrà l'onore di essere insultato da tutti noi. Barbone proprio, mamma. Attenzione, in questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale. Se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose o persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante. Che minchia ti pensi di avere a parlare? Ti pacco il bianco, ti pacco il bianco, scemo, ti spanco tutto. Ti pacco il bianco, ti pacco il bianco, scemo, ti spanco tutto. Non c'hai i coglioni, coglione. Ti pacco il bianco, ti pacco il bianco, scemo, ti spanco tutto. Ti pacco il bianco, ti pacco il bianco, scemo. Che minchia ti pensi di avere a parlare? Ti pacco il bianco. Lo Zoo di 105, tutti stronzi dal 99. Siamo. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zoo di 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zoo di 105 archivio bot. So let's get down to business. Let's get down to business. Girl, you've been on my wish list. Way more than bad, you vicious. Plain delicious. Won't doubt it, I know you bout it. Bold day girl, she like my outfit. Broke boy, no, can't be around it. When it's big business, I hit my accountant. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. It's been a million, million nights just like this. So let's get down to business. Shorty get down, yeah, she don't play up. She don't downgrade, better get your weight up. How last this long, stay prayed up. Now she chippin' with a tailor, she wanna blaze up. Hit a 100 mil, I couldn't get my grades up. Upgrade my grades till I never change up. Upgrade my whips and my crib and my key. Let you get down to the deep and she did. Fall away, but we can live them if we stay the same. I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Let's get down to business, baby. So tutto tutto triste, sono tutto depresso, però c'ho un sacco di soldi, minchia sono Tiesto. Sono preso male, sono depresso e niente. Poi gli olandesi sono tutti così, diventano calvi e miopi a 40 anni. Ma perché ha fatto una canzone così triste? Lui che era il re della techno, cioè era veramente uno proprio tutto preso bene. Adesso gli ha rigato triste la macchina, niente, adesso fa due album tristissimi. Ha sempre fatto la trans, cioè comunque quando ti ma quando cominci ad andare a trans, poi alla fine perché non vuoi rivelare che. È vero, è vero, è vero. Oh, avete letto a proposito di ambientalismo che hanno scoperto dei francesi, degli studiosi, che puoi capire se vivi o meno, o nasci o meno in una zona inquinata in base alla posizione dei testicoli. O anche il numero di braccia, dicono. Può essere. In quel caso lì è tanta roba. Sì. Però pare che ci sia una posizione particolare dei coglioni dell'uomo che ti fa capire che tu sei nato, cresciuto o vivi in una zona molto inquinata. Quando girano cosa vuol dire? Lo chiedo direttamente a loro? Non lo so. Ma sentite, ma anche i vostri sono ogni tanto in fila. In che senso? Siete tipo in posta? Allora, cioè, voi ragazzi, voi abitate a Milano, la città più inquinata d'Europa, una roba. La padana fa schifo. La malattia si chiama cripto. Aspetta, che cazzo? Una parola imposta. No, criptoorchidismo. Vuol dire che sei un po' una bestemmia, eh? Sì, hai i coglioni messi. Vediamo i miei un attimo, scusa. Ma fammi vedere se c'è l'orchidismo. No, no, i miei sono belli, guarda che belli, aspetta. No, ma ci tengo a vedere. Capito, ma li hai messi a posto. No, ma adesso li hai sistemati. No, guarda che belli. Li hai messi sul divano. Sembra il cervello di quelli di Mars Attack. Sì, dei meganoidi, vero? Ecco, la testa di Mars Attack. Dai, belli. Sono belli, Marco, sì, anche sono piaciuti anche la piccione. Mi piacciono? Ciao ragazzi, sono le palle di Marzoni. Uccidiamo i terrestri, uccidiamo i terrestri. Minchia, veramente, tu c'hai il cazzo Don Zauker. Sto cercando ho chiesto alla Chicca di contattare Rocco Siffredi perché volevo proporgli l'idea di usare la plastica per fare i vibratori. Facciamo i vibratori dello zoo con la plastica riciclata, che è una figata. Cioè, magari mantenendo la forma, come diceva Paolo, delle scarpe. Cioè, fare le scarpe con la bottiglia. Sì. Fai il vibratore a forma di bottiglia della Coca-Cola, però che vibra e ti fa raggiungere l'orgasmo. Ma c'è un problema, sono due plastiche e due gomme differenti, amico. La fica non sta a guardare. Non ha gli occhi la vagina, per fortuna nostra, peraltro. No, allora è vero il discorso del tappo, che solitamente è fatto di una plastica diversa e quindi vanno riciclati separatamente, ma ci sono bottiglie di plastica, ormai so tutto, ragazzi, che hanno invece il tappo della stessa plastica. Solitamente Madonna, tu al tatto quante ne toccate? Quante le ho raccolte, mamma mia. Se fossero vagine sarei veramente un ginecologo ormai. È pazzesco, pazzesco, che schifo, mamma mia. Comunque fate una roba, rifiutate la plastica monouso. Cioè, se potete, i prodotti monouso, evitateli, perché quello è il problema. Quella merda lì, poi, non tutta la plastica si può riciclare. Quindi evita di comprare la bottiglietta d'acqua di plastica. Comprati il tuo cazzo di boccettino, quelli di alluminio, e te lo tieni per sempre, te lo porti in giro. Ma anche il tagliere monouso, il cruscotto della macchina tipo monouso. No, ragazzi. Adesso che arriverà Pasqua e Pasquetta, che andremo tutti quanti a fare la gara. Vedi, Pippo ce l'ha. Quella roba lì la riempi d'acqua o del succo che vuoi tu. Te dovete la porti prendere in giro i compostabili, se proprio vi servono gli usa e getta. Però i compostabili. No, ma il problema qual è? Che le grandi aziende, le multinazionali, non gliene fotte un cazzo, quelli guardano solo il denaro e basta. Le multinazionali ne frega niente. Quindi loro continuano a immettere sul mercato plastica nuova e quella plastica lì non si può riciclare tutta, e quindi dove va? In mare, finisce in mare. Noi abbiamo isole grosse come il Canada, arrediamole. Ma infatti, certo, isole piene di plastica, cioè isole, ma non l'isola, cioè l'isola è fatta di plastica. Scusa, ragazzi, però ti faccio una proposta: perché non prendiamo queste isole di plastica, ci mettiamo dei pedali, certo, e facciamo dei continenti pedalò, dove la gente vai al mare, tu ti fai la tua vacanza nel Pacifico sull'isolona di plastica. Fai una roba semplice, vai su Google, digita isola di plastica nel Pacifico, isola di plastica. No, l'ho visto le immagini, sono agghiacciati. Ti si spezza il cuore, perché è una roba, fa schifo, cioè proprio fa schifo. Ragazzi, non siamo mica tutti maldiviani, loro hanno risolto il problema dello sprofondare. Facendo isole, sì, prendono l'immondizia, la compattano, ci mettono sopra la sabbia e fanno altre isole, certo, per noi stronzi. Ma se scavi trovi da bere, capito? Sì, già i goldoni sotto le cannucce. Allora abbiamo 32 secondi di pubblicità e poi giochiamo al Vinci che hai vinto. Abbiamo una fica oggi da Biella. Attenzione. Vinci che hai vinto! vinto. Vinci che hai vinto. Il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto. Segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto. Il gioco è bello spinto. Abbiamo una bellissima fanciulla da Biella che si chiama Simona, che ospitiamo all'interno del Vinci che hai vinto. Ciao Simona, buongiorno, benvenuta. Ciao ragazzi, finalmente. Senti Simona, è vero che nevica lì a Biella? Sì, stava nevicando, sì. Sono comunista così, sono comunista così. Senti Simona, possiamo insultarti? Sì, ma stronza, poco però, dai. Dacci un limite, da stronza a merda quanto? Ma no, poverino. Basta, va bene. Simona, ma esattamente sei proprio di Biella Biella? Perché io a Biella ne ho schiacciate un bel po' nel corso della mia gioventù. No, io a te niente, Marco, no, mi spiace. Ma ci siamo mai incontrati? Perché io andavo a mangiare in quel ristorante che adesso non mi ricordo come si chiama. Lo spruzzo dell'Ebete. No, è un ristorante famoso di Biella, di quel pazzoide musicista con la moglie. Armando il vomito? No, com'è che si chiama? Allora. Il musicista. Sì, quel posto tutto colorato, strano. Ma la civetta, no? No. Senta, no. Scusa, aspetta, Simona, tu spiegami il link mentale fra il musicista e la civetta. Ma lei. Come possono essere sullo stesso pianeta? Allora, stai zitto, ma che non capisci un cazzo. Non ti preoccupare. C'è anche l'Erremoscia, bastarda. Bastarda. Simona, allora, io andavo sempre a fare le serate al Miro di Biella, no? Con lo zoo. Sì, quando lo zoo era un bel programma, poi sono arrivati Paolo e Fabio e hanno rovinato tutto, no? Vabbè, e c'era questo, e mi portavano a mangiare in questo ristorante, non mi ricordo come si chiama, porca troia, ma è famosissimo a Biella. Cioè, Biella è grossa come il mio ano, cioè piccola. No, un pochino di più, dai. Ma il tuo ano, Non si sa mai. Senti, ma quanti, siccome dei ristoranti non me ne frego un cazzo. Quanti anni hai, personaggio? Personaggio ne ha 45. Ah, sei una di quelle che è proprio a pistone. Sei una stamberga, diciamo. Senza problemi proprio. Sei sbiellata, personaggio. Va bene, Catapecchia, vuoi giocare? Orso poeta! Ah, l'orso poeta! Ignorante di merda, non sai cos'è l'orso poeta! Dai! Ma ci sono tanti ristoranti belli e buoni a Biella. Non trattarmi male così. Scusa, Simona, mi fai parlare un attimo con i miei amici? Scusa. Ragazzi, ma anche voi avete questa percezione che la personaggio è una stambecca proprio. Secondo me qualcuno l'ha bucherellata. Una cattiva. Questa prende fucilate dalla mattina alla sera. Scusa, Simona, se te lo chiedo fuori così. Ma tu hai ricordi di una calza con la saponetta? No, allora non sei tu. Ho avuto questo dubbio. Un attimo, allora Biella è un piccolo paradiso perché è un posto molto. No, è vero, ma tu l'hai mai visto un piccolo paradiso? Stai zitto, mi sono schiacciato un sacco di ragazze carine lì. È stato un bel periodo della mia vita. Poi, se non sbaglio, c'è nato anche Ezio Greggio, no? Lì non è nato Biella. Sì, poi di quelle parti lì c'è Giletti. È lui o non è lui? Certo che è lui. Dai, giochiamo. Basta, dai. Bastardoni, cominciano squiz. Bastardoni, cominciano squiz. Se non sai le cose, a noi non ce ne frega un cazzo. Basta che partecipi allo squiz, squiz, squiz. Hey! Le venite! Attenzione. Sono ragazzi. Attenzione, concentrati. Sto a parlare, però. Allora, adesso mi hai rotto il cazzo. Se ne è schiacciato un sacco. La tua moto d'acqua di merda. Ha fatto bling bling. Ha fatto bling bling dopo. Aspetta, scusa, avevo le casse della moto alte e non ti sentivo. Certo. Mamma mia. Quale, quella di terra o quella d'acqua? Sì. Mamma mia. Quale di questi romani non è stato un glorioso imperatore? Non è stato glu. È stato glu. A. Tizio Caio Sempronio. Molto vago. B. Cesco Fabbro Culatello. Forse Umbro. C. Bosco Merda Verticale. No. L'ultimo è molto improbabile. www.fumagazzi.it. Mi sembra. Io do la risposta A. Tizio Caio Sempronio. Bravo. Proseguiamo molto velocemente. Quale di queste usanze è un rituale che i magnati russi apprezzano dopo cena? Quindi folklore locale. No, è una cosa che. a sparare alla servitù. Persone solite. Secondo me qualcuno lo ha fatto. Sì, sì, sì, pippare sì, le ceneri di famosi estinti in tiro di Elvis, sì, sì, in tiro di Michael Jackson. Cioè. Sai che non è un bel business. Se io fossi miliardario lo farei. Sì. Sono tutte cose che io farei. Cioè. Non avrei dubbi. Caccare sulle foto del Bolshoi. Un teatro nobile. Questo è difficile però. Sì, Vai un aiuto da casa? No, non ti aiuto. Hanno detto di tutto. Bene, vai avanti come puoi. Da fare. Allora, www.fumagazzi.it B. Pippare le ceneri di famosi. È giusto, brava Simone. Le sa quasi tutte. Vediamo se questa la conosci. Te ne intendi di. Sì. Brava, allora potresti. Ha due lauree. Quale tra questi potrebbe essere un nuovo nemico di Batman della DC Comics? Ricordiamo DC, che DC vuol dire. Sta per Dioclede Kashmir. Sì. Madonna Paolo, sei pazzo. Dioclede Kashmir è stato il primo personaggio. Mi si è fermato il cuore per un secondo. Minchia, ragazzi, c'è una BS che neanche la porta. Tutti gli avvocati di Mediaset, tutti tristi in giacca e cravatta. Signor Mazzoli, quello che ha fatto lei è deplorevole, vergogna. Non so, è stato Paolo. Chi è Paolo? È quello dietro nel cartellone. Ah, sì, quello che abbiamo deportato lo stipendio. Allora. Quello che guarda dall'altra parte. Quello dietro nel cartellone guarda dall'altra parte, sproporzionato. Attenzione. Molly? Ah, sembri quello di Molly. Molly? Sì. Quindi. L'uomo guardia di finanza, temibilissimo, la divisa grigia. B, la donna mestruosa, tutta insanguinata. C, Capitan Nespresso, nervosissimo, mi chiede il caffè. Allora, www.fumagazzi.it C è giusto, Capitan Nespresso. C è giusto. Bravissima. Ultima domanda che potrebbe attribuirti la da puntare come una medaglia. Quale di questi giocattoli è stato ritirato dal mercato dopo il lancio del 1989, quando è caduto il muro di Berlino? Sì. È vero? Sì, sì. Cioè, sì, cazzo? Sì, sì, proprio l'89. Ero là. Il videogame di Super Mario Pippato, il gioco 6 volte più veloce con il rischio che infarti giocando. I funghi non li saltava, li mangiava. No, una roba incredibile. Terribile. B, Barbie sodomita portapenne. Ma è temperata. Sta pecorina sul tavolo. Quanti buchi ha però? Uno, infila penne. Uno dietro, ok. C, Lego City Hiroshima The Day After, una colata di mattoncini grigi nel sacco. Puoi giocare dove e quando vuoi, ovunque. Portatile. Solo che non puoi recuperarla, cioè una volta che l'hai sparpagliata ogni volta che giochi è sempre diversa. Sì. Sì. Quale delle tre? Allora, www.fumagazzi.it D ed è giusto. Brava, la D. Ne ha sbagliata una, perché è di Biella. Ci segnalano anche che Fred Buscaglione era di Biella, anche la cosa Mara Veniere di Biella, cioè tutti a Biella. Aspetta, l'uccellino mi ha detto anche il gran cazzo che me ne frega. Sì, di Biella. Anche lui. Senti Simona, sei fidanzata? Sei sposata? Convivente. Convivente. Sei scambista? No. Però cosa? Vabbè. Come stai senso, vestita da Velma di Scooby-Doo? Ah, una favola, ragazzi, una favola. Dicono che quelle con la remoscia. Descriviti, dai, che ci abbiamo gli ascoltatori arrapati. No, ma ragazzi, ma chiedetemi che lavoro faccio. Che lavoro fai? Lavoro un distributore. Sono una pompista. Pensa che allora la gente è a casa in questo momento, no? Perché purtroppo la situazione è quella che è. E adesso, basta sentire una voce femminile: voglio l'Instagram. Vuoi dare il tuo Instagram? Ti facciamo anche un algo mercato. Dai, dacci il tuo Instagram. Vai. Allora, è molto semplice: il mio nome è Simona Barausse. Barausse? Ed era semplice. Sì, la curiosità. Andiamo a vedere, aspetta. Sei in diretta, Simona. La prima reazione è quella che. Lo so. Sì, lascialo privato. Ma è carina invece. Ha capello corto, da bastarda proprio. E poi hai una cosa, Simo: hai le due zampette di animali. Quindi questo mi fa capire che ti piacciono gli animali. No, fare i riti satanici. Sì. Brava. Dai, apri il profilo, togli la cazzo, ma sei un bellissimo ragazzo. Ma sei David Bowie? No. Sì, sei David Bowie. Cazzo, ma no, è il biondo di Zoolander, come si chiama l'attore? Sì. Ecco, grazie, la mia autostima, ragazzi, Mugatu. È proprio a posto. Porca troia, ragazzi. Allora, sblocca l'account, così aspetta. Sblocco, va bene, sblocco. Va bene, okay. Ciao Simone, ragazzi, grazie mille. Anch'io mi adoro, anch'io. Cazzo, ma aspetta, ma tu hai fatto l'era glaciale? We can be heroes. Povera. Ciao, voglio Simo, bene Simo, ciao, un bacio. Comunque io mi lamento sempre perché noi riceviamo un sacco di ingiustizie, ragazzi. Cioè, allora, negli altri programmi hanno mille ospiti, in televisione possono ospitare chi vuole, noi non, mai nessuno, mai. E tanti dicono, ma perché hanno paura di voi? Ma non è vero. Basta spiegare un po' che cos'è lo zoo. Cioè, se viene una persona che noi rispettiamo, la rispettiamo anche in onda. Ma ragazzi, noi non rispettiamo nessuno. Ma non è vero, ci sono dei personaggi che noi abbiamo ospitato, rispettato, trattato bene. E sono andati via piangendo. Ma non è Giacobbo è venuto. Giacobbo è venuto con una borsa di regali, ci ha leccato il culo 81 volte per non farsi infamare. Ma non c'è, abbiamo avuto degli ospiti che abbiamo trattato bene. Poi ovvio, se viene la sciacquetta che ha fatto 4 apparizioni in televisione e pensa di essere il VIP, la mandiamo a fanculo. Cioè, però abbiamo avuto dei personaggi importanti. Io sto cercando di recuperare Rocco Siffredi, ma la chicca non ci dà aggiornamenti, quindi non lo so. No, ce l'ho, eh. Volevo, ce l'hai cosa? Posso chiamarlo se vuoi. Ah, è white list. Yes. Allora, una persona che possiamo chiamare. Strano, perché sai che solitamente la blacklist è legata sempre a qualcosa di sessuale, quindi strano che non abbia perforato. Io farei 4-5 passi indietro. Sì, infatti. Aspetta un attimo, allora vado qua. Ok, sono qui, tutto venga. Aspetta che li faccio dimenticare a tutti. Aspetta. Questo è il sensore di parcheggio. Lo volete subito? No, mettiamo Sbomeriggio Live, che so che loro hanno un ospite importante. Oggi c'è Nicolas Cage, poi lo chiamiamo, dai. Che bello Roccone! Che bello Roccone! Mamma mia, che tettone che c'ho oggi! Telespettatore a casa, te lo stai menando davanti al televisore. No. Sei in lockdown! Guardati sta mammellata! Ciao amici, ciao ignoranti, ciao scroti coi piedi. Sono tornata la vostra Barbarona. È il momento di Sbomeriggio Live. Allora, teste di cazzo, adesso che ho tutti gli occhi puntati su di me, perché non avete nient'altro da fare se non stare sui vostri pidocchiosi divani di Vizzolo Predabissi, sono qui io a decidere il vostro futuro. Io vi dirò che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Vi ho insegnato a lavarvi le mani prima della pandemia. Io vi ho detto cosa fare. Avete visto? Avete visto in che bella situazione siamo adesso? E grazie a me, la vostra Barbarona nazionale. Dai, ignoranti di merda, più luce che si vedono le rughe. Oggi c'ho un ospite importantissimo, È venuto qua col suo jet privato, perché io, solo io, posso fare entrare e uscire le persone nel nostro paese, anche se c'è una porca troia di pandemia. Abbiamo con noi un famosissimo attore, Nicolas Cage. Ciao a tutti! Un attimo, che sono entrati prima i denti di me. Eccomi, io sono quello dietro i denti. Ciao, Nicolas Cage. Nicolas Cage è il famoso dentone, lo chiamano pianoforte del cinema americano. Tra l'altro, se non sbaglio, sei di origini italiane, perché da parte di padre tuo nonno era di Bernalda, in provincia di Matera. Bernarda, mio nonno era di questo paese che si chiama Fica. Poi il termine fascista l'hanno chiamato Bernarda perché Fica era un po' pesante. Bernalda. È il paese con i peli sui colli, lo chiamano. Tua nonna era di Napoli, lo so. ognuno ha un problema in famiglia. No, è un problema. C'è il suo, anch'io sono napoletana di origini, quindi. Ah sì? Mm-hmm. Lo so, mi spiace. Come ti spiace? Scusa. Ognuno, vedi, io sono calabrese. Quindi. No, non sei calabrese. Senti, allora, Nicolas Cage è tra l'altro nipote del famoso regista Francis Ford Coppola. Molti sostengono detto che tu. Anche Coppolazza. Coppolazza. Molta gente sostiene che tu abbia avuto successo proprio perché sei imparentato con questo famoso regista che ti ha aperto, ti ha spianato le strade. Allora, prima di tutto, se hai i nomi di queste persone, ti chiederei di fornirmeli come, in modo che possa finirli come ho fatto con tutti gli altri precedentemente. E poi, comunque, hanno ragione: nel senso che io sono un cane come attore, sono una merda. Sì. I film fanno cacare. No, assolutamente, Nicolas. È una cosa che riconosco. Aspetta un attimo, che i denti vogliono salutare a casa. Ciao, ciao. Io non ho un incisivo, ho un panettone Bauli, è una cosa incredibile. Allora, senti, tu tra l'altro, prima di partire proprio dagli inizi, nel 2006 hai ottenuto la candidatura al Razzie Awards per la peggiore interpretazione dell'anno nel film Il Prescelto. Sì. Allora, il Razzist Award è perché io proprio ce l'ho con tutte le etnie. Ho preso un premio perché io proprio, minchia, le odio tutti. No. Tutti quelli che sono diversi da me anche come pettinatura. Addirittura io proprio, io Hitler lo baciavo, se lo trovavo. Io sono una persona orribile. Ma parlando di cose orribili, definiscono le tue interpretazioni pessime non solo nel film Il Prescelto. Hanno ragione, okay. Io ho un'espressione sola, cioè io non provo empatia, non provo sentimenti. Allora, si parla di Ghost Rider dove tu sei praticamente un non morto che ti incendi sulla moto. Ecco, in effetti quel film è un po' una merda. Allora, in quel film in cui mi incendio sulla moto è pazzesca, anche perché io in quel film Goffo Heidi sono questo uomo vestito da bambina dei Pirenei che è così, e sono anche un po' goffo, quindi mi muovo un po' così e ho una moto, no? Io arrivo a questo Kuwait in America con questa moto vestito da Heidi gigante con i dentoni, e lì a un certo punto, minchia, un po' goffo, vedo che c'ho, sono in riserva, cerco di fare benzina, tutta la benzina mi finisce sulla moto, però io c'ho anche il vizio di un po' pippo e un po' mi faccio le canne, certo. Allora tutta vestita da Heidi gigante con i dentoni, mi accendo una sigaretta, solo che i denti, siccome anche il movimento dei denti si muovono autonomamente, i denti non chiudono neanche, mi scivola via la sigaretta e prendo fuoco io vestito di Heidi e la moto, perché sono appunto Heidi goffo. Sì. E è proprio un figo, sì, sono io che corro tutto incendiato perché quindi mi viene la brillante idea, vado in ospedale da solo, tutta una fiaccola umana, mi faccio 106, solo che sono tutto bruciato negli occhi, non vedo la strada, quindi io giro per 4 giorni urlando in fiamme con questa moto, guarda, c'è Heidi che brucia. È un film un po' sincopatico, vedi passare dietro nello schermo che brucio sta cazzo di moto. Beh, è un film interessante, me lo ricordavo diverso comunque. Senti, ti ricordi il film Face Off? Tra l'altro l'hai fatto anche con John Travolta. Face Off con John Travolta, due facce di un assassino, te lo ricordi? Molto bello, sì, 97. Sì. Fessotto è questo film che faccio con John Travolta, perché lui balla anche in tutti i film, lui balla sempre. Tu sei un agente dell'FBI che da anni cerca di arrestare l'acerrimo nemico Castor Troy, non so se il Castor Troy. Io sono questo poliziotto un po' pazzo che sarebbe preso con una comitiva di castori, proprio lui ce l'ha, sta sul fiume a guardarli, minchia. No, a un punto gli viene l'embolo e dice, li devo arrestare tutti sti porco. sai con chi se la piglia? Col Castoro Troia. Ma no, questa comitiva di castori, ognuno ha il suo, è tipo i puffi, no? C'è il castoro quello dentista, il castoro poliziotto, e c'è il castoro Troia che batte sulle rive del Fiumigiattolo, dove c'ha. Ma no, il Castor Troia è un pericoloso terrorista. È un terrorista, sì, è infatti anche di origine meridionale. E io a un certo punto riesco ad acciuffare questo castoro gioia che proprio mi fa anche un bocchino. Con questi denti gialli, sai, io dentone, lui dentone. A un certo punto ci capiamo. Perché certo. Sono anche Castoro. Senti, 8 mm, te lo ricordi il film? Minchia, se me lo ricordo. La detective pace. Privato Tom Welles. Con un cazzo di 8 mm. Viene assoldato. Lui è bellissimo, no? Mm-mm. Lui è un uomo di una bellezza. Sì, sì. Mi nascondono i denti con un'altra faccia. Quindi io sembro una persona normale, non un mezzo antico. E quindi io back della fica impressionato, però un cazzo di 8 mm. Ah, allora mi faccio delle leccate di fica, però perché inchia qualche cosa ci devo fare con queste fiche, no? Dico, ma dai, fottiamo, no, solo a pecorina, come si girano io metto il cazzo sul dito, me lo metto dove sono le palle e le chiavo col dito e loro pensano che sia niente. Beh, senti, sono tantissimi i film. Sì, io tutti brutti, tutti brutti. Il ladro di orchidee. Sì. Il titolo è stato camuffato al cinema perché era solo per il circuito veneto. È la storia di questo camionista che gli rubano il camion, no? Infatti al ladro. E allora c'è questo camionista bestemmiatore incapanito che gli frega nel camion e lui minchia va avanti 2 ore di bestemmie, una cosa, la chiesa non mi ha voluto più fare entrare neanche a battesimo dei parenti. Nicolas Cage, è stato un onore averti con noi, complimenti per il parrucchino che adesso hai, sembra un no, questo è il mio cane, saluta Spanky, hai visto? Sta dando anche la zampina ai denti. Nicolas Cage a Sbomeriggio Live. Ciao Nicolas, vuoi dire qualcosa ai tuoi fan? Se qualcuno ha pietà di me e mi vuole mandare 3-4 mila euro in modo che possa ritornare al mio paese senza dover fare pompini sull'aeroplano, mi fa una cortesia. Si è mangiato tutto lui, si è con quei denti lì. Due morsi è finita. Lui è l'unico che mangia il cucciolone in un morso solo. Non legge neanche la barzelletta, per quello che è triste. Ma vedi che però noi negli anni 80-90, cioè, ci bevevamo tutto. Cioè lui dicevano che era bello, ma basta. Una merda. Ma lo so, però nei film lui faceva la parte del bellone e la gente lo ricordi vedeva. Con Air, che era tutto enorme di fisico con la testa minuscola. Sì. Cioè, c'aveva un M&M's al posto del cranio. Un'oliva scolare. Sì, sì. City of Angels, bellissimo quel film di Meg Ryan, stupenda, lui una merda pazzesca. Cioè, era proprio improbabilissimo con Meg Ryan, che è la donna più bella del mondo. Cioè, è una roba assurda. Però ai tempi... sai, andrà a pestarlo adesso. Ma se anch'io, dai. Andiamo a pestarlo che ce l'ha sderenata intanto. Andiamo, sto bastardo. La sderenata dello Zoo di 105. Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande figlio di puttana. Ti butto nella monnezza, amore mio. Ti butto nella monnezza, amore mio. Sderenata rap, sderenata rap. Ti butto dalla finestra, amore mio. Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break, grande figlio di puttana. Ciao Umbriake, sono Laura e vorrei dedicare una sderenata al mio fidanzato Alessandro. Mi ha chiesto da poco di sposarlo e io, ovviamente, ho accettato. Ditegli che lo amo tantissimo, che anche quando saremo marito e moglie, io sarò sempre la sua porcona e avrò sempre voglia di cazzo, come adesso, forse anche di più. PS, chiamare dopo le 17:30 se possibile. Grazie, un bacio. Non è così. Pronto? Pronto, parlo con Alessandro? Sì, chi è? Ciao Alessandro, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ciao. Senti, sto chiamando perché Laura ci ha spedito un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire? Certo. E dai, adesso te la faccio allora. Alessandro, che vuoi tanto bene a Laura. Sei fortunatissimo, tu non ti rendi conto, tu non ti rendi conto, Gumba. Lei mi ha scritto che prossimamente vi dovrete sposare e vuole dirti che puoi star tranquillo, di lei ti puoi fidare, perché lei sempre sarà la tua porcona. E avrà voglia di cazzo, come adesso e forse anche di più. Sicuro da sposata, lei diventerà più maialona. Alessandro. Bellissima, complimenti. Grande, ti vuoi dire qualcosa a Laura? Che non vedo l'ora di rivederla, visto il problema della zona rossa. Perché mo siete separati allora, quindi non state abitando insieme? No, non ancora. Quindi la voglia cresce. Sì, non solo quella. Diciamo che stai facendo da te in questo periodo, grandi rasponi. Non proprio, però. Vabbè, puttane allora. Cosa fa? Esatto. In qualche modo devi sfogare, giustamente. Vabbè, comunque Laura ti vuole benissimo, ti vuole troppo bene. Grazie del messaggio. Però nel frattempo non spendere tutta puttana, che poi servono i soldi per fare la famiglia. Ti mando un grande saluto, caro. Ciao carissimo. Ciao. Un abbraccio. A te. Ciao. Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Alessandro, non ti fare ingabbiare, fan tutte così. Poi una volta che c'hanno l'anello al dito sei fottuto. E adesso votano pure, pensa. Guidano le macchine. Guidano le macchine. Sì, ne ho vista una l'altro giorno. Ma in Svezia, un giorno le donne voleranno. Carissimi ascoltatori, c'è un dramma in atto. Pippo, mettimi la base giusta. Grazie. Braia, eccola. Fabio Alisei ha terminato la scatola di Goleador alla cola. Basta. Vi avevamo chiesto un aiuto, ma avete fatto orecchie da mercante. È vero. Cercate di recuperare mandando altre scorte di Goleador, ma soprattutto quelle ripiene. Alla sua attenzione. Bravo. In Largo Donegani 1 a Milano. Rendi un Alisei felice. Bravo. E la vita ti sorriderà. No. Allora chicca segna, problemi denti, Mattia e Fabio Alisei, così almeno adesso abbiamo l'elenco corretto, perfetto. Guarda Fabio che perdi i denti così, li perdi tutti. Mi metto quello di Nicolas Cage. No. This is the zoo only for you. Questo file è stato scaricato dal canale Telegram Zodi 105 Channel, registrato da Anthony. Per altro materiale, cerca su Telegram Zodi 105 archivio bot. Tears are gonna dry. I wouldn't lie, cross my heart and hope to die. I hope you know that I will be here with my shoulder by your side. So cry, you can leave it all behind tonight. Cry. You can leave it all behind. Now you're up. faceva i cartoni animati, Griffin. Adesso canta la canzone in cui dice piangi. Vabbè. A noi in piena Peter. In piena pandemia, perché mettiamo le canzoni che dicono piangi? Beh, però è bella sta canzone. C'è John Martin, cioè non è un coglione, non è mazzone. Ma non possiamo mettere musica leggerissima. Non è Paolo Noise e Pippo Palmieri, cioè John Martin, scusa. Cazzo, è John Martin, fratello di Ricky Martin. Chi è John Martin? Ma io conosco Ricky Martin, Dean Martin, Steve Martin. Ma chi è John Martin? Vabbè, non sai chi è John Martin, ma perché non sta a parlare con te? Non lo sai, quello che fai film con Jerry. Allora, Alisei, A, non capisci un cazzo di macchine. B, non capisci un cazzo di figa. C, non capisci un cazzo di. Ma dai, di musica. Non capisci un cazzo di abbigliamento. Abbigliamento ti do ragione, ma figa e musica. Ma cosa servi? Cosa servi? Non servi a nulla. Ma figa e musica mi hanno dato le chiavi della città. Ma chi? Ma figa. Io ho le chiavi della città di Fregna e le chiavi della città di Beethoven. Stamattina l'ho inquadrato in una storia e le persone in direct mi hanno scritto delle cose un po' bruttine. Mi hanno scritto che sono ingrassato, ma no, mi hanno scritto che assomigli. Alisei, fammi parlare col coglione. Beetlejuice, allora, Alisei, allora tu hai avuto una grande fortuna nella tua vita, sei diventato un uomo dello spettacolo, no? E tra l'altro c'è stato un periodo in cui noi eravamo tipo delle mini rock star, no? E quindi avevi accesso a tanta fregna. Ma spararne il mucchio, ogni tanto prenderne una che è buona, non vuol dire aver buon gusto. Io ne prendevo tre al giorno, però. Ma cosa prendevi tre al giorno? Marco, ogni volta che tu giravi una foto sul telefono, sai, io le portavo in camera. Ci vorrebbe una serie TV. Paolo. Che raccontasse la verità. Sai, avessimo un canale televisivo, lavorassimo per un'azienda che fa questo però di mestiere. Non succede. Ma se succede. Allora, vi dico questa. Allora, Alisei, durante il nostro lungo viaggio negli Stati Uniti, si porta a letto un mostro che in una discoteca, tra l'altro vuota, era l'unica seduta con una sedia in mezzo alla pista. Aspetta, era l'unica donna. Sì, e leggeva un libro, cioè, rendetevi conto. Allora, spinta mi guarda, da qualcuno, immagino. Mi guarda perché sapeva che io ero pronto. Era brutta, a era molto brutta. Sì, mi guarda con quell'occhietto da furbo, mi prende da parte e mi fa: Marco, in tempo di guerra ogni buco è una trincea. Infatti, dopo 20 giorni, Marco. Ho capito, ma fatti una sega, gli ho detto: guarda, veramente. Ma dove? Che dormivamo insieme tutti nello stesso motel. Ma mi dicevi, esci dalla stanza. Sì, ti dico, esci un attimo che mi faccio una sega. Ma è meno imbarazzante farsi un mostro, scusa. No, una roba. Perlomeno c'è era brutta, sì, lo ammetto. Ma credo avesse anche delle branche. Era un po' dugongo, sì, era un po' sabbipo. Però potremmo vederla questa cosa in una serie TV. E invece, purtroppo. Se succede. Se lavorassimo per un'azienda che produce roba, materiale per televisione, robe varie, ma purtroppo non è così. Non succede. Ma se succede. Certo. Comunque, ho postato stamattina, e questo vi fa capire come gira il mondo, no? Oggi, essendo la giornata del riciclaggio della plastica, eccetera, ho postato delle foto che praticamente ritraggono una cruda realtà, che noi esseri umani ogni giorno ingeriamo una grossa quantità di plastica involontariamente. Certo. Ed è all'interno dei cibi che noi mangiamo. Ovviamente ho preso 1300 like, cioè mai così bassi nella mia vita, perché quando parli di qualcosa interessante che non ci sia dentro una macchina o una bella figa o qualcos'altro, la gente non gliene frega un cazzo. Si chiama Instagram, Sì, no, infatti. Comunque, vi dico solo questo: noi ogni 10 giorni ingeriamo la stessa quantità di 2 carte di credito di plastica. Ogni 10 giorni. Hai capito come faccio ad avere i soldi? La gente mi scrive: sì, ma in senso letterale. No, noi mangiamo plastica, sì, perché purtroppo è ovunque ormai sì, è nel ma cibo. Ma voi che post noi mangiamo. E pay, io American. Certo, va bene. Io certo. Mangio American. Ma cosa mangi American? Ma dai, c'è la carta marrone della Lidl, ma dove vuoi? Ci penso io, Marco, ci penso io. Sì, ma Fabio, tu plastica, noi platino. Allora, aspetta, Paolo. Non conosco la differenza. Paolo. Senti questo rumore? Allora, sto tirando fuori questa carta. Ah, ma tu ce l'hai ancora fisiche? No, io ce l'ho sul telefono. Stai zitto, senti il rumore? Queste sono quelle che si possono clonare. Con le carte di credito ci tagliamo gli alberi. Senti, ma rumore? Io ci ho tagliato la coca per tanti anni. Senti il rumore? Allora, sai che quella per pippare è una bomba. Sì. Perché non hai numeri in rilievo? Sì, perché è proprio perfetto. Scusa, continuo a tirare fuori carte, ma sono tutte di metallo. Anche questo, porca puttana. Io sai che non ho più il supporto fisico. Gli spiego la magia, Fabio. In America te la danno comunque. Sì, stai zitto. No, perché è una cosa che io quando tira fuori Marco, allora, dicevo, no, no, è successo questo. Un giorno nella cassetta della posta ti arrivano centinaia di carte di credito. Tu devi solo attivarle, no? Un giorno mi arriva questa qua, l'American Express, quella tutta in acciaio. L'American Express barba. Minchia, ma sono un signore. Poi dopo vai in giro per strada, vedi veramente il senza tetto che tira fuori l'Amex. E dici, ah, aspetta un attimo, scusa, amici che ho sempre ritenuto un po' così, insomma, e tirano fuori addirittura quella nera. Sì, come cazzo è possibile? Mi fa, guarda che te la regalano, cioè America, sì. Si chiama American Express ed è una roba, è tipo la carta della Poste Pay in Italia, no? Lo so, ma voi non avrete mai questa. Il bicchiere per pagare. E io ce l'ho addirittura di ceramica, senti. Cioè, addirittura, senti, nella mia carta c'ho le penne dentro. Senti che roba. È la tazza. Sei buona, è una tazza. Passala sulla cassa che ti faccio vedere che pago. Senti cosa c'ho io, senti. La guancia card. Io pago a schiaffi, uno gli ha uno schiaffo, no, 30 Euro. Fabio, tu devi vedere Paolo Noyes con il suo inglese improbabile che cerca di pagare con Poste Pay. Sì, no, col portafoglio, quello digitale. Dove appoggi il wallet? Esatto, dove appoggi il telefono sulla macchina. No, mamma mia, io stavo male. E non funzionava, mannaggia la miseria, pensava che era un furto perché ero fuori zona. Grazie al cazzo, c'hai il portafoglio, c'hai il guscio del telefono che è 82 centimetri. Non, sì, lui non ha il carapace, non ha. Tu hai un pangolino. Ha un armadino. Adesso ho preso questo wallet magnetico della Apple. Una cagata, non fatelo mai. E scarica le carte di credito. Ho perso già 60 patenti. Paolo, si chiama wallet, non wallet. Il valet, poi il valet è quello che ti porta la macchina. Wallet non esiste proprio, non esiste. Ma perché adesso mi deve correggere? No, perché lui inventa delle parole. Ma scusa, ma a me mi capiscono. Allora, sua moglie sente tutte le persone dire ma'am. Ma'am vuol dire signora? Mem, madam, no? Ma sì, una contrazione. Se dici mom è mamma. Certo. Lei sentiva e diceva mom e chiamava mamma tutte le persone. Mi scusi mamma, e questa dice: ma non sono tua madre. Lei guarda, ma che cazzo. Noi per 20 anni abbiamo chiamato la gente zio senza nessun problema. Sì, ho capito, però mamma, lei mamma a tutti, capito? Scusa mamma. Anche sai qua con la bocchina del mamma, con la sorte di mamma. La fregna di sorte. Dai, ci parli, lancia tu il blocco di Wender in inglese, dai, ti prego, dai. Paolo, ti prego, dai. Allora, è una cosa imbarazzantissima. Una condizione, cioè, cosa la preferisci? Moderna oppure. No, allora, fingi di essere su quel balconcino che avevi carino con Piazza i tuoi amici Venezia. Omosessuali. Ok, allora lo faccio come se fosse a Miami quel momento lì. Sì, siamo un po' ubriachini. Aspetta, lanciare un blog. Faccio io. Vai. No. Adesso tu hai già detto che ti stimo tantissimo. No, quello è un altro. Ma è un altro balcone, Paolo. Allora, quello era Milano. No, facciamo un tequilino. Ma in English dovevi farlo. In inglese? Eh? In inglese dovevi farlo. In quello con universale. Col piede. Questo è lo scherzo telefonico, quello originale dal 1999, che tutti hanno copiato, e che viene costruito utilizzando le voci campionate, da film o da persone realmente vive e non. RDS ci ha fatto. Oggi Wender utilizzerà le voci del famosissimo film. Con terapia da pioggia come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. Amici miei. Pronto? Terapia da pioggia come se fosse Antani con la super cazzola brevaturata. Sorella? Non mi ha capito bene. No, non ti sento proprio, non ti sento, mi devi scusare che non ti sento proprio. Sono anziana io e sento poco, mi devi scusare che non ti sento proprio. Sì. Con terapia da pioggia come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. Scusate, sorella? Ma io non ti sento, sono anziana, non ti sento proprio, mi devo scusare. Con terapia da pioggia come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. Non mi sento proprio per niente quello che dici, scusate. Antani. Che significa? Con lo scappellamento a destra. Pronto? Pronto? Sono io. Chi sei? Terapia da pioggia come se fosse Antani con la super cazzola brevaturata. Io voglio parlare con uno, non con la voce registrata, altrimenti chiudo. Col pensiero delle tue cosse dormite, io impazzisco. Maria. Ecco cosa si scatena a questo essere umano, multiforma, ah, quando si sente dire una porcata. Descrivimi minuziosamente come sono fatti i tuoi capezzoli. Come lo succede un po'? Ti leccherei dalla testa ai piedi. Oh, Maria, Maria. Che brutto uomo. Tieni la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. No, spazzami. Con lo scappellamento a destra. No. Cosa fa? Che ne pensi? Ah, te le sega. Riprendiamo lo scherzo. Madonna mia. Pronto? Pronto? Sì? Sono io. Io chi? Trapiato a fiocco come se fosse Antani con la super cazzo la brematurata. Ah, ho capito. Allora sì, prematuranza? Con scappellamento a destra o a sinistra? Con lo scappellamento a destra. A destra? Allora tanta roba. Sì, sì. Professore, non le dico. Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo la bitumata, ha lo scappellamento a destra. Prematurata però. Beh, insomma, ognuno ha la sua specialità, no? Però mi raccomando che sia prematurata la super cazzola, perché se no non c'è come se fosse Antani a destra. Ha detto di no, eh? E infatti. Okay. Alla telesega. Bene. Dei tre. Vai, ti saluto. Con terapia da pioca come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. Perfetto, assolutamente. Verso le 6 di sera, però non prima, eh. Grazie. Vai, ciao. Grazie. Ciao. Aia, la base. Sorella? Pianta! Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzo la bitumata, ha lo scappellamento a destra. Che cosa è, scusa? Non mi ha capito bene. Pronto? Piella! Trapiata piocco come se fosse Antani con la super cazzo la brematurata. Ma sta gemami! Con lo scappellamento a destra. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ma che lingua parla? Allora, è arrivato un messaggio da un dirigente di Netflix. Aia. E dice: allora, cari dello Zoo di 105, sono un dirigente di Netflix. Dopo tutti i commenti dei vostri ascoltatori che commentavano sui nostri social, ho parlato con la dirigenza per creare un programma che racconta la storia dello zoo. Abbiamo deciso di farne uno che racconta la storia del programma più ascoltato della radio. Tra due mesi vedrete la storia di Takeaway con la Leotta e Battaglia. Una puntata di un minuto, cioè bellissima, è una roba meravigliosa. Un altro ha scritto: l'altro giorno ero in macchina, ho ascoltato per caso il programma delle 18. Sembrava lo Zoma comprato su Wish. Che cattivi. Che Wish è una piattaforma bellissima. Sai che per sbaglio ho comprato, parlando prima di Golden Goose, ho comprato una Golden Goose su Wish tarocca. Ma perché? Ma per vedere che cazzo, ero curioso, $15 mi hai fatto. No, ma non hai idea di che. È una roba di cartone. Cioè, se le bagni si sciolgono. No, una roba. Ma tu non devi comprare online, Marco. Non puoi. Lo so. Hai un problema. Tu devi solo uscire dalla radio adesso. A proposito, silenzio, devi andare a prendere la moto con le casse. Beh, sai, io posso uscire a fare shopping. Qua è tutto aperto, sai. Stamattina tu era pieno di persone che si facevano il vaccino stamattina. Cos'è il vaccino? Non lo so. Il vaccino, c'erano macchine ferme. Non conosco, l'ultimo l'ho fatto al militare. Sì. Fanno i vaccini ai semafori ormai. Fanno i sì, perché adesso i semafori si ammalano, ma che cazzo dici? Allora, Italia, io sono italiano, quindi. Quindi comunque ci tengo molto, soprattutto perché i miei colleghi li voglio sani e belli, felici e contenti. Saremo i numeri uno sul fatto di riciclare la plastica, però diventiamo i numeri uno anche nell'uscire dalla pandemia, per favore. È imbarazzante. Cioè, dai, veramente, è una roba imbarazzante. Cioè, ci stanno ridendo in faccia paesi del terzo mondo. È già uscito il parere dell'EMA su AstraZeneca? Sta uscendo in queste ore? Adesso aspettiamo. Verso le 4. Sì, ma AstraZeneca, ma se quella non va bene, ma intanto chiama Pfizer. L'America possono scegliere. Quella è la cosa che mi fa incazzare. Loro possono scegliere quale fare. Adesso hanno aperto i bar vaccini. Tu vai dentro e ti prendi, non so, la dose. Il colera, l'herpes. Sì, quello che vuoi. Ciao Marco! Ciao! Ciao ragazzi, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie a Pippo, grazie a Letizia Puccioni, grazie a Lucilla, la Chicca. Domani cerchiamo di avere Rocco Siffredi per proporgli i cosi, i vibratori di plastica riciclata. Grazie a Johnny, grazie a Wender, Fabio Lisei, Paolo Noiz, Marco Mazzali, Franco e Luciungiungung. Ci sarà Franco Luciungiungung che lavora nel corridoio, guarda, ti fa così con la mano. Ciao, vieni, vuoi venire, ciao, Franco? Ciao, domani, ciao.